L'altra cosa importante, che ha sottolineato soprattutto la senatrice De Zulueta nel suo intervento di oggi in commissione, riguarda una questione inclusa nel decreto legge, ovvero sia che il governo italiano accetta e ammette che tutte le persone fatte prigioniere in Afghanistan oggi non sarebbero sottoposte alle convenzioni di Ginevra sui prigionieri militari, e quindi di fatto implicitamente riconoscerebbe la legittimità giuridica di casi come quello di Guantanamo. Ultimo ma non da meno, risulta da un'intervista fatta a un generale italiano comandante in capo del battaglione che sta in Nassiriya che l'avvicendamento avvenuto ai primi di gennaio della brigata Sassari a Nassiriya è tornata in Italia. L'avvicendamento è stato operato da un gruppo di quelli che il generale ha chiamato mercenari, che sarebbero i militari o comunque sia personale della Kellogg Brown Root, che è una delle imprese di sicurezza privata della Halliburton, che è controllata anche dal vicepresidente Dick Cheney.